Elisabetta, una buona compagna per la vita. Elisabetta era una donna importante, perché moglie di un sacerdote. Ai sacerdoti era permesso sposare soltanto delle donne pie, il cui comportamento morale fosse totalmente senza colpa perché, diversamente, avrebbero reso impuro il ministero santo dei loro mariti. Così era Elisabetta. Non solo aveva sposato un sacerdote, ma lei stessa discendeva dalla distinta tribù di Aaron. Il suo nome deriva dalla stessa radice di quello della moglie di Aaron, Elisabetta. La Bibbia sottolinea che erano ambedue giusti di fronte a Dio e che camminavano senza colpa in tutti i comandamenti e gli ordini di Dio. Nessuno aveva il diritto di parlare male sul suo conto. Essa non seguiva semplicemente i passi spirituali del pio marito, ma aveva una sua vita spirituale indipendente ed era onorata per la sua relazione personale con Dio. Elisabetta osservava tanto letteralmente la legge quanto lo spirito di essa. Alla luce di tutto questo, il fatto di non aver figli per lei era enigmatico e doloroso. Come ogni altra donna ebrea che aveva portato alla luce dei bambini, sperava anche lei di diventare la madre del figlio del Messia. Eppure doveva subire la stessa umiliazione di qualsiasi altra donna ebrea alla quale era stata negata la benedizione d'avere dei figli. Forse spesso si era posta delle domande dolorose. Cosa ho sbagliato? Perché Dio non è misericordioso con me? Perché non mi benedice? Ora era molto anziana, ed il figlio tanto desiderato non era arrivato. Lo aspettava ancora perfino alla sua età? O si era ormai rassegnata al pensiero che le sue preghiere non erano gradite a Dio e che non avrebbe avuto dei bambini? Aveva attinto coraggio dalla vita di Sara, Rebecca ed Anna, donne che come lei erano state senza bambini per tanto tempo, ma la vita è piena di sorprese non solo per le madri di Isacco, Giacobbe, Samuele, donne che dopo aver aspettato per tanti anni avevano finalmente dato alla luce dei grandi uomini al loro paese. Elisabetta non era esclusa. Suo marito apparteneva a un gruppo di sacerdoti che serviva nella casa del Signore. Durante i 6 mesi del turno di servizio, Zaccaria, suo marito, aveva avuto l'opportunità di bruciare l'incenso nel santuario. Questo era un grande onore che un sacerdote poteva ricevere al massimo una volta nella vita. Anzi, molti non lo ebbero mai. Il giorno nel quale Zaccaria bruciò l'incenso, si aperse una nuova fase nella vita sua e di Elisabetta. Sovente il cielo sembra fatto di rame, perché nessuna preghiera viene esaudita. Poi, tutto succede ad un tratto. Gabriele, lo speciale messo angelico di Dio, si presentò al sacerdote e disse: «Non temere. Zaccaria, le tue preghiere sono state esaudite. Tua moglie Elisabetta avrà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni». La lunga attesa era stata ricompensata. Zaccaria ed Elisabetta avrebbero avuto un figlio. Dio avrebbe tolto la vergogna. Una nuova vita sarebbe venuta nella loro casa tranquilla. La quiete sarebbe stata bandita dallo strepitio dei piedi di un bambino, di grida e risate. Ma non era tutto qui. Altre buone notizie. Era l'alba di un nuovo futuro per l'intera nazione ebrea. Questo figlio non sarebbe stato come tutti gli altri. Egli sarebbe stato un uomo dedicato al Signore, che avrebbe aiutato il suo popolo a tornare a Dio. Gesù stesso avrebbe testimoniato di lui, che non sarebbe mai più vissuto uomo più grande. L'orizzonte si allargò, la visione aumentò, la benedizione che sarebbe risultata dalla nascita di Giovanni avrebbe varcato le frontiere del suo piccolo paese e del suo popolo, avrebbe raggiunto il mondo intero. Giovanni sarebbe stato l'uomo che avrebbe preparato la via per la venuta del Messia. Egli sarebbe stato l'araldo del regno a venire. Zaccaria, le tue preghiere sono state esaudite. Non solo le tue preghiere riguardo ad un figlio, ma anche quelle riguardo al Messia. Come poteva un essere umano abbracciare tanta felicità tutta in una volta? Zaccaria rivelò di non esserne capace. Egli chiese un segno che gli fu concesso da Dio. Per 9 mesi interi non riuscì a dire una sola parola. Tutto quello che desiderava doveva scriverlo. Ma Elisabetta evidentemente non ebbe problemi a credere alla promessa meravigliosa, anche se non l'aveva ricevuta come suo marito direttamente da Dio, attraverso un suo messaggero. Essa l'accettò prosaicamente, come suo marito l'aveva scritta su una tavoletta. Elisabetta aveva camminato così vicino a Dio da poter sentire la sua voce, o aveva risposto con più fede? La Bibbia non ce lo dice. Mentre molte persone nell'Ovest scelgono semplicemente il nome di un bambino, in base alla sonorità, o perché ricorda loro un amico speciale, questo non succedeva nella società di Elisabetta. Il nome Giovanni era come il suono acuto di una tromba. Dio è pieno di grazia. Dio stesso aveva trovato questo nome per Giovanni, nessuno avrebbe potuto dargliene uno più bello. Nessuno avrebbe potuto sceglierne uno più appropriato. Elisabetta pensava a queste cose mentre il miracolo si compiva nel suo corpo. Si ritirò per 5 mesi. Era perché si sentiva a disagio nel far vedere alla gente curiosa intorno a lei il suo corpo che ingrossava? Forse. Ma la ragione più grande era Dio. Essa si meravigliava del miracolo che si stava verificando, non solo perché Dio aveva dimostrato ancora una volta che egli si specializza nel compiere l'impossibile, ma anche per la sua fedeltà senza fine. Quella che era sembrata una punizione, ora si dimostrava una benedizione. Dio aveva un figlio molto speciale in serbo per lei e Zaccaria, ma avevano dovuto aspettare il momento giusto, il momento di Dio, il quale non poteva venire prima che fosse vicina la nascita del Signore Gesù. Elisabetta avrebbe portato al mondo un bambino eccezionale, un bambino che avrebbe avuto un posto unico nella storia. Era davvero benedetta. La sua pazienza, grandemente provata, era ora eccezionalmente ricompensata. Se Elisabetta reagì in modo più positivo del marito alla notizia della sua gravidanza, non mostrò poi alcun compiacimento, né guardò a lui, disprezzandolo. Non abbassò lui per potersi innalzare piuttosto. Reagì da brava moglie che accetta la debolezza nel compagno della sua vita. Elisabetta non aveva solo delle origini distinte, aveva anche un carattere distinto ed indipendente, nel senso positivo della parola. Quando il loro figlio nacque, i parenti e i vicini interferirono, cercando di costringerli a seguire la tradizione di dare al bambino il nome del padre. Elisabetta rifiutò questa scelta. Non cedette alla tentazione di conformarsi agli altri, ma rimase leale al marito e a Dio. Fermamente e risolutamente, essa disse, «Il suo nome sarà Giovanni». La sua vita era caratterizzata da altre virtù, come l'umiltà e la modestia. Questo risulta evidente dal suo comportamento quando la parente Maria la visitò inaspettatamente durante il periodo in cui era incinta. La rivalità era totalmente estranea a Elisabetta. Piuttosto che parlare di sé, diede tutta l'attenzione a Maria e ne riconobbe subito la superiorità. Quello divenne un incontro non di una donna anziana e una donna giovane, ma della madre di Giovanni, colui che avrebbe preparato la via, con la madre di Emanuele, il Messia, la cui via bisognava fosse preparata. Questo faceva la grande differenza. Elisabetta lo riconobbe con un'umiltà che si potrebbe invidiare. Non era affatto gelosa. Non trovava difficile rivolgersi alla donna più giovane chiamandola madre del mio Signore e la benedetta fra le donne. Questa era l'opera dello Spirito Santo in lei. Le caratteristiche del frutto dello Spirito che Paolo elencherà anni dopo erano già presenti in lei. Ancora prima che Maria potesse condividerle la sua grandissima felicità, per mezzo dello Spirito di Dio, Elisabetta sapeva già quel che stava succedendo nel grembo della cugina. Elisabetta vide, per così dire, il bambino non ancora nato e lo adorò come suo Signore. L'altro bambino non nato, quello che era in lei, saltò per la gioia, come se volesse dare il benvenuto al suo maestro, a colui che avrebbe umilmente servito più tardi. In quel momento, la donna che era stata disprezzata perché senza figli divenne una profetessa, benedetta è colei che crede. Disse ad alta voce, poiché le cose annunciatele dal Signore avranno compimento. Per 3 mesi, queste due donne incinte, che stavano compiendo la storia, rimasero insieme. Parlarono molto, risero molto, ma soprattutto nella loro mente c'era il pensiero di ciò che Dio stava facendo. L'Evangelista Luca è molto chiaro in questo. Non c'è chi da meravigliarsi se tutta la gente, che viveva vicino a loro nelle colline della Giudea, parlava di Giovanni e dei suoi genitori. La gente prendeva a cuore ciò che stava succedendo e diceva: «Guardate questo bambino, aspettate e vedete quel che sarà di lui. La mano di Dio è sopra di lui in modo particolare». Ci fu allora una nuova attesa, la gente cominciò a guardare avanti per vedere ciò che Dio avrebbe fatto. Era preparata per grandi cose a venire. Zaccaria, suo padre, aveva profetizzato che Dio avrebbe suscitato un Salvatore che avrebbe liberato dal peccato il suo popolo, come aveva promesso mediante i profeti. Per introdurre l'uomo che sarebbe venuto, Gesù, il Messia, il Salvatore, Dio si servì del figlio di Elisabetta, una donna di fede e di carattere notevoli. A renderla tale era la pienezza dello Spirito Santo dimorante in lei, che la predisponeva ad accettare pienamente la volontà di Dio per lei. Dio può servirsi di una donna così per compiere cose meravigliose e impensabili. Essa è una buona compagna per la vita. Elisabetta, forte di carattere, è una buona compagna per la vita. E un marito vicino a una simile donna si trova a suo agio. Realizza che quando cade, ha accanto una degna compagna che lo rialza, impedendo in tal modo la caduta di entrambi. Elisabetta è ricordata come una compagna adatta, sia come colei che seppe aspettare pazientemente il volere di Dio, sia come chi seppe portare avanti il piano di Dio con umiltà e sottomissione. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte rivisti,